Mi pare oggi, Fabio, sia una giornata speciale per il Sudafrica. È una giornata speciale, come tutte le giornate speciali, purtroppo legate a un ricordo brutto, perché il 16 di giugno del 1976, proprio qui vicino a noi, nella zona di Soweto, ci fu una violentissima risposta da parte della polizia sudafricana a una manifestazione studentesca di ragazzi di colore che protestavano contro una riforma legata all'istruzione che introduceva alcuni criteri non ritenuti congrui e ritenuti discriminatori e soprattutto imponeva anche alla popolazione di colore il linguaggio non soltanto il linguaggio delle parole, ma anche il linguaggio dell'apprendimento scolastico legato al potere bianco. Fu una protesta sedata nel sangue, morirono tantissimi ragazzi. Tutti i giornali del Sudafrica questa mattina riportano le foto dell'epoca, molte di queste in bianco e nero. Ce n'è una con un padre che tiene in braccio un bambino, un ragazzino di 13 anni morto sotto i colpi della polizia, che ci ha veramente commossi questa mattina quando l'abbiamo acquistato. Ed è diventato il giorno della gioventù, viene ricordato come il giorno della gioventù, anche se la popolazione di colore lo ricorda come il Soweto Day, cioè vuole dare una caratterizzazione più forte di un nome che invece il governo ha proposto e imposto, e che è abbastanza neutro, perché giornata della gioventù vuol dire tanto ma vuol dire anche poco. Certo. E quindi qui i ragazzi di colore lo ricordano come il Soweto Day. Chissà che... Non a caso, scusami Gigi, credo che sia stata piazzata nel calendario di oggi la partita del Sudafrica.